Lo scrittore Martin Mosebach ha narrato una volta un aneddoto al cui centro stava la Santa Messa. L'episodio in questione è avvenuto molti anni fa nell'isola di Capri. Un giorno ha fatto qui la sua comparsa un prete inglese che non rifuggiva da rendersi riconoscibile nella sua funzione sacerdotale, indossando la veste talare, ormai dismessa dalla maggior parte dei preti, anche nell'Italia meridionale. Quando si seppe che quest'uomo in sottana intendeva seriamente celebrare una messa tutti i giorni, dopo qualche esitazione gli fu infine messa a disposizione una cappella che si ergeva alla sommità di una scogliera che scendeva ripida verso il mare, il Monte Tiberio, su cui sorgeva una volta la Villa Iovis, una villa sontuosa dell'imperatore Tiberio. Questa cappella veniva aperta solo una volta all'anno, l'8 settembre, in occasione della festa della Natività della Vergine. Per il resto dell'anno, i topi, che si aprivano dei passaggi nei cassetti della sacrestia, ne erano i padroni incontrastati. Ora, il prete inglese, che era un tipo pratico, non un grande teologo, si mise in marcia. Si arrampicò sulla montagna scoscesa che si affacciava sul golfo, visibile da lì nella sua interezza. Da principio ebbe il suo bel fare con la serratura arrugginita della cappella. Poi entrò, accompagnato da un raggio di luce solare, in quel locale ammuffiti. Lo sportellino di latta del tabernacolo era aperto, le candele consumate, le sedie accatastate alla rinfusa. L'aspetto della sacrestia faceva pensare a una fuga precipitosa. Luridi vasi di fiori, un telo d'altare immarcescito, un calice di pessimo gusto, il corredo dell'altare reso appiccicoso dall'umidità, un messale che cadeva in pezzi. Persino il crocifisso si era incurvato. Il prete si guardò intorno e gli ci volle solo un attimo per riflettere. Aprì la finestra, in un angolo scovò una scopa e iniziò a spazzare. Poi prese il crocifisso, lo baciò e lo ripose nell'armadio della sacrestia. Ripulì il calice e sistemò i candelabri. Quando trovò la fune della campana, si arrampicò su una scala e la fissò alla campana stessa. Si era rotto l'incantesimo. Il prete indossò una stola di raso viola tutta macchiata. Poi versò in un piccolo vaso un po' di acqua che si era portato da casa in una bottiglia di plastica e iniziò a pregare. Vi aggiunse del sale, fece il gesto della benedizione e riversò l'acqua nelle bacinelle di marmo accanto all'ingresso. Sembrò per un attimo che la pietra ridestata iniziasse a sospirare. Allora, quando il prete iniziò a tirare la fune della campana, accorsero alla chiesetta da lontano singoli credenti, donne e bambini, che ben presto riempirono tutta la cappella. La funzione religiosa poteva avere inizio. Il prete si inginocchiò davanti all'altare e iniziò a pregare Introibo ad altare Dei. E all'osservatore attento parve che fosse accaduto qualcosa di speciale da quando l'uomo in sottana aveva ripulito il luogo di sacrificio, acceso le candele, consacrato l'acqua, tolto la polvere e gettato in un angolo le trappole per topi. Perché, come Abele o come Noè, si era costruito un altare per poi celebrarvi un sacrificio. E, come Mosè, aveva delimitato il luogo in cui far sorgere l'arca dell'alleanza. Aveva predisposto e delimitato il luogo sacro. Soffermiamoci sul nesso tra preparazione esteriore e predisposizione interiore. Anche la missione di San Francesco inizia così. Francesco sente il crocifisso pronunziare quelle parole poi diventate così famose. Devi ricostruire la mia chiesa. E all'inizio le pensa riferite a quel luogo fisico che sta cadendo a pezzi, la chiesetta della Porziuncola, che lui risistema e ricostruisce, per capire poi che gli era stato chiesto ben altro, che doveva ricostruire la chiesa vivente. Ma anche il lavoro manuale iniziale ha la sua importanza e fa parte del compito. È molto importante la cura perché il luogo sacro sia sempre predisposto, perché la sacralità sia sempre percepibile, riconoscibile, interiormente come esteriormente. Grazie a Dio, noi abbiamo nel mondo chiese straordinariamente belle e dobbiamo recuperare l'amore per la loro sacralità. La fiamma dinanzi al tabernacolo ci ricorda la tacita presenza che lo abita. Se oggi spesso le chiese sono come saloni per concerti, dove c'è spazio solo per la bellezza del passato che fa da sfondo alla nostra vanagloria, ecco che viene interiormente meno il senso del sacro. Predisporre sia lo spazio esteriore che quello interiore al recupero del sacro è condizione ineludibile per entrare nella celebrazione in modo tale da incontrarvi il sacro.